preparati a vivere il videogioco più terrificante dell'anno, ispirato ai racconti del maestro dell'horror H.P. Lovecraft. Svela un mistero celato tra i ghiacci. Affronta l'incubo. Chronicle of Eastmount Mountains of Madness, a febbraio su Steam. Un saluto agli amici di Runtime Radio da Filo da Bologna. Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. Carissimi amici, bentornati su Ludico Forum, qui come sempre ogni venerdì alle ore 21, che è l'ora nella quale facciamo questa trasmissione. Scusatemi, si era accavallato un dito e mi è venuto da ridere, perché veramente che, beh, è bello questo mixer, è bello, troppe luci, troppe pulsanti, troppe luci, e questo potrebbe essere chiaramente un problema per uno come me, che quando vede una luce rimane paralizzato a guardarla, un po' tipo una falena. Con noi questa sera Alex Raccuglia. Ciaoissimo a tuttissimi, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Come stai, Alex? Sei pronto? Sei carico? Sono nato pronto. Poi diciamo una cosa importante su quello che stiamo facendo questa sera. Lobby frontali. Buonaserissima, non vedevo l'ora di ripartecipare. Stavolta una puntata di seguito all'altra. È una puntata per te questa, poi è un po' una puntata per te e anche un po' per Alex, anche se per Alex per tutti. Poi da per tutti, per tutti infatti. Carmine Puccio Console. Ciao a tutti, cercate sempre la X, perché anche se la trovate sotto certamente non c'è un tesoro. Esatto, di solito c'è tanti sorci, quello sicuramente. Marco Gualdi. Ciao, di solito sotto la X c'è un pad. Sotto la X c'è? C'è un pad. Un pad. Genio. Grazie. Io non l'ho capita. Però poi te lo spiego in privato. In privato. Va bene, ragazzi. Allora, ciao a tutti. Ciao, benvenuto. Ciao. Tu sei un po' bassino, Gualdi, ma d'altronde non posso pretendere. Allora, sono appiccicato al microfono. Esatto, fai. Sì, il microfono. Bene, questa è la puntata dove si parla di Indiana Jones. Faremo una monografia generale, parleremo un po' di film, dell'affetto che abbiamo per questa saga. Soprattutto cercheremo di vedere anche le varie declinazioni, tra quelle dei film, naturalmente i libri, i fumetti, ma soprattutto videogiochi, perché insomma Alex Raccuglia recentemente ci bestemmiava contro, perché gli abbiamo detto come comprare anche su Apple la versione di The Last Crusade, ovviamente, perché giustamente Mickey ci voleva giocare e... Giusto, dico cose corrette oppure sto dicendo? No, dici cose corrette. Infatti siamo incazzati perché alla fine quando è finito il lockdown non avevamo ancora finito il gioco, per cui siamo fermi. C'è anche da dire che è una di quelle avventure della Lucas ancora interlocutorie, per cui è possibile morire, è possibile incastrarsi, e dal mio punto di vista, forse sarò vecchio e rincoglionito, è difficile, cioè certe cose, nel senso, non potevi proprio immaginarti, dovevi farti veramente o decinaia di ore di gioco oppure avere l'amico che ti dava la soluzione. Però vabbè, è bellissimo, c'è tanto amore. Beh sì, che altro, è un buon ricordo. Allora ragazzi, un secondo soltanto, perché giustamente... Misteriosi tesori nascosti, manufatti inestimabili, corse contro il tempo per la caccia a reliquie magiche e l'immancabile lotta contro mascalzoni senza scrupoli, spie e nazisti. Nazisti, io odio questa gente, diceva il nostro professor Jones. Dalla nascita dei predatori dell'Arca Perduta ad oggi sono passati decenni, eppure Indiana Jones è ancora oggi l'icona e la massima espressione della storia d'avventura come non se ne fanno più da troppo tempo. Come ogni icona che si rispetti, il più famoso, affascinante e avventuroso archeologo del mondo ha trasceso la sua dimensione cinematografica. Esploriamo con dovizia e amore, oltre che rispetto, l'universo di Junior, che resta e resterà sempre l'uomo con frusta e cappello che vince i cattivi e protegge la storia. Ecco, io inizierei da qua, da Alex. Alex, ma secondo te Indiana Jones è ancora un'icona immortale? Bam, così, sì, bam. Per me sì. Assolutamente sì. Devo dire la verità. Ok, non fanno un film di Indiana Jones dall'89, se non sbaglio. Per cui è passato un sacco di tempo. Detto questo, comunque la nostra generazione, noi che eravamo ragazzini negli anni 80, lo ricorda assolutamente con tantissimo amore per vari motivi. Secondo me, ripeto, no, loro hanno anche annunciato Disney che ne faranno un quarto film. No, fanno il quinto saltando direttamente. Fanno la successione di Fibonacci 1, 2, 3, 5. Però secondo me sono anche loro lì che non sanno bene che pesci pigliare, perché effettivamente Indiana Jones è unico, è uno ed è soltanto un attore, soltanto lui può interpretarlo, e adesso ha qualche anno, insomma, non sono gli anni, sono i chilometri, però qualche chilometro sulle spalle ce l'ha. Puccio? Nel senso che se sono giocati male il franchise, non tanto con il quarto film, ma hanno... vabbè ragazzi, cioè, ho capito che dobbiamo fare massimalista al fischietto, però esiste, cioè facciamoci una ragione. Ci sono le calamità, le tempeste, i deserti, le crisi, e il quarto film di Indiana Jones. No, e poi tra l'altro, cioè sì, è brutto, ma cioè, fa meno schifo di altra roba che ho visto nella vita, onestamente. Quindi, insomma, ma anche io sono d'accordo, certo, su punto. Questo, sai? Tanto io sto mangiando, cioè, però. Sai che cos'è? Cioè, io quando dico. Sto mangiando dei ventaglietti buoni. Ah, dei dolci. Cervello di scimmia congelato, di verità. Padre santo, sì. Zuppa de occhi. Zuppa de occhi. No, semi freddo, cioè, comunque. Vabbè. Cioè, al di là del quarto film, eccetera, eccetera, c'è il fatto che se vai a parlare con un ragazzino, diciamo, under 20, lo conosce poco come personaggio, ha visto i film in televisione perché li fanno sotto Natale, ma diciamo non c'è stata una produzione tale da mantenere viva la leggenda, no? Non c'è stato un prodotto nuovo che ha attratto qualcuno, non è un franchise che è stato rilanciato, non ha avuto riproposte che avessero catturato l'attenzione, quindi per noi che ci abbiamo, l'età che ci abbiamo, sicuramente sì, però più ti sposti. Io ho gli anni che ho. Sì, io ho gli anni che ho, esatto. Parlando di Boris torna sempre, ragazzi. Film che possono tornare da un momento all'altro. Esatto. Sto dicendo, è per quello che magari più sali, più porti sull'asticella del tempo che è passato, meno persone hanno la stessa idea che abbiamo noi di quel. Ma infatti io ci ho sempre avuto l'idea, cioè da quando ero ragazzino fino a che ci ho avuto 30-35 anni, diciamo così, che Indiana Jones fosse veramente immortale. Poi se penso ai ragazzi della generazione di Matteo, che oggi hanno 20 anni, e gli dice Indiana Jones, magari non lo so, cioè nel senso. Però Francesco, che invece è uno sensibilmente più giovane di noi, ci ha legato a Indiana Jones in qualche maniera. Ma lui è vecchio dentro, cioè nel senso è maturo. Quasi marcio. No, sì, marcio proprio, diciamo proprio così. Sì, anche perché non sono la ventina, l'ho passata da mo, quindi così sensibilmente più giovane di voi non ci metterei, no, beh, proprio. No, non di stronzate, se ho 50 anni ho. Vabbè, cioè, 17 ne corrono più o meno. No. 15, non mi ricordo. No, 17, okay. Che so. 16, basta. Vabbè, dai, andiamo avanti, superiamo questa impasse. Cifra. Sì, ci sono legato anche perché, però, per merito di gente della vostra età, soprattutto mio fratello, che si registrava, che da bambino su Canale 5 Italia 1 si registrò le VHS. Grande. E io mi ricordo la sera in cui, mentre la registrava, ci vediamo insieme pure i Predatori. E lì rimasto affascinato, soprattutto, cioè per me uno dei migliori finali in assoluto, tutta la scena finale dell'Arkham. Spoiler! Vabbè, che spoiler! Oddio, hai fatto bene, cioè, non si sa mai. Non si sa mai. Sì. No, cioè, per potrebbe me essere qualcuno che davvero non l'ha visto, cioè, vero. Magari ci ascolta un ragazzino di 5 anni che non l'ha visto e noi lo spoileriamo, non è giusto. Cioè, come se gli vai a dire, oh, guarda, Babbo Natale non esiste. Cioè, bruttissima questa cosa. Spoiler, dai. Spoiler, brutto spoiler. Spoiler anche per questo. Mi ricordo che me le guardavo a giro, cioè, me le guardavo sempre prima, secondo, terzo, ogni tanto le riprendevo, ma l'avrei visti fino ai 15 anni, non dico una decina di volte, ma quasi tutti e tre. E in particolare mi ricordo che il terzo l'ha registrato, mio fratello non aveva fatto in tempo a registrare all'inizio, quindi ha registrato quando, verso la fine dei titoli, quando finisce la parte iniziale di Everything Anything Goes, praticamente. Quindi quando ho rivisto gli indie, mi è venuto un paio di anni fa, mi è venuto lo sfizio di riguardarmeli a distanza di più di 10 anni, in originale, poi mi beccai, cioè per me i primi 2 minuti, cazzo, da dove sono usciti fuori? Non li ho mai visti, 3 minuti di film in vita. È una remaster. Sì, è davvero, per me fu una sorpresa scoprire che, nonostante una cosa che avessi visto e rivisto, è una cosa che poi col tempo, a parte che poi lo apprezzi in modo diversamente perché ci fai noti molte più cose, che giustamente quella coscienza da adulto che quando eri bambino, però per me è sempre rappresentato qualcosa di e noti anche, diciamo, tutte le cose che possono stridere adesso, per cui, diciamo, per quanto sia immortale non vuol dire necessariamente che è al passo coi tempi, ma ci sta pure, perché una produzione degli anni di 40 anni fa, però ispirata a film ancora ben più vecchi, comunque, perché comunque ha un milione di ispirazioni, c'è un casino di ispirazioni in Indiana Jones, ma soprattutto i film, le serie avventure che guardavano al cinema i due creatori, cioè Spielberg e Lucas, e ci sono dei filmati su YouTube in cui fanno vedere praticamente dove alcune scene sono state praticamente quasi copiate, praticamente più che delle ispirazioni sono vere e proprie scopiazzature. Non vuol dire necessariamente è copiato, che schifo, no, perché comunque per loro è un modo di omaggiare questi film con cui sono cresciuti. E poi stavo dicendo, Indiana Jones è stata anche la causa per cui, uno, io sono profondamente antifascista, antinazista, proprio. E nonostante delle cose, diciamo così, gente che mi conosce sa. E due, per un periodo di tempo nella mia vita, da bambino, volevo fare l'archeologo da grande, quindi. E poi per me è stato sempre, questa è forse una cosa che posso dire dopo, soprattutto in realtà tutti e tre, però già dal primo, cioè, è soddisfacente perché proprio c'è il mistero, c'è l'esplorazione, ci sono anche degli intrighi, la roba alla fine, c'è pure tutta sta cosa molto esoterica, alla fine è come viene gestito, soprattutto alla fine l'ultimo, ma anche tutti e tre in realtà c'è questa cosa esoterica che non rimane nascosta, viene in qualche modo, cioè a un certo punto l'arca si apre, cioè il Graal lo si ottiene, però non succede come quando succede per esempio in alcuni film in cui c'è il mistero segreto, poi sveli il mistero e è una puttanata, per esempio, oppure viene realizzato bene. Qui, cioè, viene portato fino all'ultimo, viene realizzato decisamente bene proprio tutto il mistero, tutta la parte più esoterica, misteriosa che c'è dentro. È finito come sprologo iniziale, poi sì, è vero, ti dà grande soddisfazione. Sì. Grazie a tutti, è finita la puntata, ci vediamo la prossima settimana con Ludico Forum. No, sto scherzando, naturalmente. E, Marco, secondo te, siamo tipo a metà puntata oramai, secondo te è un icona immortale ancora, oppure è solo roba per noi vecchiacci? Diciamo che un po', secondo me ancora il mito di Indiana Jones rimane, però effettivamente mi ci ha fatto pensare, perché per noi è una cosa come sono gli acchiappafantasmi, come Guerre Stellari, come Ritorno al Futuro, però in realtà ce lo ricordiamo noi, ma oggi se andiamo a chiedere in giro forse il nome lo conoscono, ma non so sicuro che poi i ragazzi, comunque quelli sotto i 30 anni, ci conoscono veramente il personaggio. Beh, certo. un po' di dubbi mi vengono, ma è un po' il dubbio che ho su tutti quanti i film degli anni 80, pure per dirti Ritorno al futuro, quello secondo me è un film che non so quanto è conosciuto oggi, anche se per noi è un mito la biologia, chiamiamola così, perché il terzo film, vabbè, cioè, forse è meglio del teschio di cristallo, però non lo so. Ma sicuramente non ci sono paragoni, dai. Probabilmente sì, non lo so. E guarda che io comunque il teschio di cristallo qualche tempo fa lo stavo rivedendo la scena del inseguimento dentro al magazzino dell'IKEA. Però era quello è Indiana Jones, cioè c'è dell'Indiana Jones dentro, però ci sono delle vaccate inspiegabili. Ma, allora, se mo ci arriviamo. Secondo me mo ci arriviamo a sto film, comunque, perché in ogni caso icona sì, però è un'icona che per come stanno appunto gestendo il personaggio sta andando un po' nel dimenticatoio, quindi forse questo prossimo Indiana Jones serve per questo, per far insomma, ragazzi, c'è anche lui, compratelo, ma soprattutto conoscetelo e compratelo, quindi stanno cercando insomma di venderlo. Con il film quello apocrifo forse non ci sono riusciti molto, quindi confidiamo nel prossimo, perché se falliscono questo... Beh, io c'ho anche un'idea mia su questa cosa. Poi dopo basta. Su questa cosa qui, intanto in chat c'è Gino... Gino Politino Pilotino Gino Pilotino che Gino, dice Gino Pilotino, dai, se, non lo ricordate? Se abbiamo visto la puntata di South Park di Indiana Jones e che Lucas e Spielberg hanno approfittato di Indy, che insomma detto così può sembrare un po' brutto. Quello che penso io è che Indiana Jones è così brutto perché praticamente fanno rivedere che al cinema fanno rivedere varie scene di stupro, diciamo, famose della storia del cinema, però reinterpretate con Indiana Jones come vittima e Spielberg, okay, e Lucas che fanno gli stupratori, tipo degli snuff movie, esatto. Ah, quindi è sempre riferito alla puntata di South Park. Sì, ok. Sì. No, io dicevo che secondo me Indiana Jones, che non ha inventato il genere, chiaramente, lo ha esteso, diciamo, lo ha portato all'ennesima potenza. Perché comunque su Indiana Jones ci sono delle inquadrature storiche, c'è un ritmo, c'è proprio il film d'avventura, così come oramai noi, quelli della nostra generazione, lo riconoscono, lo individuano, no? Praticamente. È anche vero che perlomeno per quanto riguarda me, Indiana Jones è indissolubilmente legato alla faccia di Harrison Ford, che è probabilmente il motivo per cui poi qualsiasi immagine, qualsiasi personaggio che è prettamente cinematografico e non è letterario non potrà essere mai immortale quanto magari il personaggio di un libro, no? Che comunque alla fine è più legato alla propria fantasia piuttosto che a un'immagine. Perché io comunque a me Harrison Ford, cioè Indiana Jones, mi è sempre piaciuto da morire, ma se fosse stata un'altra persona al di fuori di Harrison Ford, secondo me probabilmente non sarebbe stata la stessa cosa. La mimica facciale, il modo in cui gesticolava, il fatto che indica. A proposito di questo, Pizzi, chi era che doveva fare Indiana Jones al posto di Harrison Ford? C'è qualche leggenda urbana su questa cosa? Non sono leggende, è vero. È vero. Sì, chi era? Tom Selleck e i suoi baffi. Sarebbe stato la stessa cosa? No, perché poi questo è un po'. Qual è stato il vostro primo approccio con Indiana Jones? Cioè, dove, quando e con quale film soprattutto? Perché quello è importante. Parto io l'ho già detto, quindi. Sì, Alex, scusa. Allora, questo è un aneddoto che mi piace sempre raccontare perché è una cosa che mi ha cambiato la vita. Mio padre nell'inizio degli anni 80 andava via spesso in trasferta per lavoro e stava via a dormire, e quando era fuori tendenzialmente andava al cinema da solo e tornò da una di queste trasferte dicendo: dovete andare a vedere questo film, Il predatore dell'arca perduta, perché è bellissimo. Io avevo 8 anni, capite, non è che fossi molto addentro queste cose, al che quando è arrivato al cinema del mio paese e mia mamma siamo andati e io sono rimasto estasiato, cioè nel senso ho visto qualcosa che dicevo: mio Dio, ma che roba bellissima che ho visto. È uscito dal cinema e mi ricordo, sono andato da mia mamma, ma chi è che fa i film belli? Cioè, chi fa diventare i film belli? È il regista. Allora gli dissi: io, mamma, farò il regista da grande. E poi ovviamente alterne fortune, casini, cose, però tendenzialmente più o meno è un po' quello che faccio, anche se poi non mi occupo di cinema, mi occupo più di pubblicità e di promozioni collaterali. però devo dire che questa cosa qui mi ha veramente cambiato la vita. E quando nel lockdown precedente, ad aprile, io e Mickey ci siamo riguardati i primi tre film, cioè tutti i film che sono usciti di Indiana Jones, devo dire che rivedere Il Predatore dell'Arca Perduta è stato qualcosa di eccezionale. Cioè, nel senso, pur col doppiaggio nuovo, con Pino Insegno che fa mamma mia, Jones, che è una cosa terribile, fatica, sì. Devo dire che è un film che ancora oggi ha una struttura narrativa perfetta. Non c'è niente che non sia più che a posto, non c'è nessuna inquadratura che sia superflua, non c'è niente di fuori posto, cioè, tutto quello che c'è in quel film lì è assolutamente perfetto. Gli altri due, Il Tempio Maledetto e come si chiama quello dei nazisti, L'Ultima Crociata, sono dei bei film, ma non raggiungono quel livello di perfezione assoluta che secondo me è I Predatori dell'Arca Perduta, che dal punto di vista di struttura narrativa, di regia, di tutto quanto, è ancora oggi veramente, veramente, veramente tanto attuale, secondo me. Ma anche secondo, credo che sia un'opinione non tanto opinabile, secondo me. Ecco. Beh, il racconto che hai fatto, sì, è un racconto che fai spesso e che mi piace sempre ascoltare, perché secondo me poi alla fine, cioè perlomeno per quelli della nostra generazione, alcuni legami con alcune cose sono anche molto personali, no? Al di là del valore, no? Estetico e artistico magari del prodotto in sé, è comunque un qualcosa che... Io penso che il mio primo rapporto con Indiana Jones al cinema è stato con Il Tempio Maledetto, e ci ho avuto paura, cioè nel senso, per me era un film dell'orrore, cioè nel senso, era una cosa terrificante. Beh, guarda che era abbastanza... Era inquietante, beh, abbastanza truculo, tutto sommato, rapportato al fatto che ti aspettavi magari, cioè ti aspettavi, non mi aspettavo niente, ero ragazzino, però insomma, se tu lo vai a vedere nel contesto della cinematografia di Indiana Jones, è un po' la sorta di perla nera all'interno, no? Dei tre film, anche se secondo me I Predatori dell'Arca Perduta è un film meraviglioso, però io non posso dire che scusate, mi stanno chiamando, mi sta telefonando DJ Hooker, ma io sto facendo la diretta, scusa, salutiamo Revolver Radio, purtroppo non posso partecipare. E dicevo, alla fine comunque è il terzo film quello al quale sono, cioè proprio che io me lo sono rivisto recentemente con Michela sul proiettore e tutto quanto, e devo dire oggi quel film ancora funziona una cifra, vuoi perché comunque c'è anche la caratura di un personaggio come Connery che comunque gli dà quell'elemento, perché c'ha una controparte Indy che è alla sua altezza, no? De norma, alla fine Indy è veramente un personaggio quasi solitario, no? Nel senso che tutto ciò che c'è intorno non è allo stesso livello, secondo me. Però sì, insomma, diciamo che il film che più affascinante sicuramente è l'Arca, insomma, quello per me è sicuramente così. Però ecco, il mio primo approccio è stato Il Tempio Maledetto, paura, molta paura al cinema, volevo andare via. Beh, ero pure bambino, insomma. Marco. Io ho sempre L'Arca Perduta, ero talmente piccolo che non mi ricordo nulla. No, era sicuramente una delle, se non la prima visione TV di qualche canale Mediaset, probabilmente canale 5, perché i film quelli di punta li facevano lì. E, ovviamente non è che ricordi molto di quell'esperienza, però lo so che mi è piaciuto e me lo sono poi rivisto diverse volte. Le cose che però mi sono rimaste impresse di quel film, che ancora oggi ricordo le scene, sono ovviamente la palla, quindi la palla di pietra, e lui scambia malamente l'idolo e non sapevo mai se era troppo leggero o troppo pesante quel dannato sacchetto, poi lui che spara al tizio con la spada, e vabbè, certo, quella è un'icona proprio, iconiche, e la scena della svastica sul cofanetto dell'arca quando la trasportano sulla nave, sulla barchetta in mezzo all'acqua che brucia per cancellare, che gli fa schifo, infatti gli fa schifo proprio pure il simbolo del nazismo vicino, quindi queste scene me le ricordo, e poi alla fine la scena finale ovviamente le specie di spettri, spoiler. No, beh, però possiamo dire che la scena lì, che non capì, ma pure la scena finale è ignorante. No, quella era figa, però mi domandai, lo capì dopo rivedendo più tardi, insomma, il film che lo spiega all'inizio, perché Indiana Jones a un certo punto gli dice chiudi gli occhi e fa finta di niente, fischia, non aprire gli occhi. Io quella scena lì non credo, ma perché lui sa questa cosa? Che cos'è? Come mai? Ma perché lui è Indiana Jones, lo sa, sì, cazzo. Jones, cioè, no, in realtà viene detto all'inizio del film, perché c'è la foto degli ebrei che trasportano l'arca, che sono tutti quanti bendati o comunque con la mano sugli occhi. Per questa non me la ricordavo, devo dire. Sì. Le folgori, com'è? Le folgori, l'ira di Dio, vallo a sapere. La radio per parlare. Mamma mia, cioè, brividi. Grande film, ragazzi. No, che poi tra l'altro la scena dei loro che si squagliano, anche lì, ignorantina, cioè nel senso, quello che chi si squaglia la faccia, i cascarocchi, cioè, beh, insomma, ignorantina un cacchio, per farla ce n'è voluta, perché comunque ho dovuto fare prima un calco della faccia, poi metterci lo scheletro di un materiale che resistesse, mettere tutti gli elementi, comunque tutto di cera, ripitturarlo più volte in modo, sì, era cera e comunque, e poi doveva essere buona la prima, velocizzata, cioè, perché comunque in 10 minuti c'era sputo, sì, c'era sputo. Sì, poi una in 10 minuti, cioè, vabbè, noi con gli sputi siamo di scena immortale per me, che pure la testa di, come si chiama, la cosa di Belloc che esplode, poi gli misero, mettiamo un po' di fuoco in modo che si vede un po' di meno, perché davvero forse la cosa più truculenta è la testa di Belloc che esplode, però in post produzione gli misero un po' di fuoco davanti, perché davvero era troppo per l'epoca. Modello Canil Guerriero. Puccio, il mio primo impatto è stato una VHS. Grande VHS. Sì. Tra l'altro non è anche tipo registrata dalla TV o altro, cioè c'era una videoteca dove vivevo e vivo ancora a Putignano. Non ricordo esattamente se l'ho scelta io, se fu una scelta di, non penso di mio padre, perché in genere non ama quel tipo di film. Io ho folgorazione immediata, perché comunque sono sempre stato attratto dalle figure degli studiosi, per me Indiana Jones era una specie di Sherlock Holmes che però indagava sul passato e in più c'aveva la frusta, quindi questo misto di elementi mi piace ancora tantissimo. La cosa che ricordo è che io ho fatto però alla fine, credo della terza o quarta visione di quella videocassetta, l'ho visto con mia madre, la stessa osservazione che c'è in una puntata di The Big Bang Theory, cioè l'ho guardato e ho detto, ma cioè, se bastava aprirla e si scatenava l'ira di Dio, alla fine quello che fa lui è ininfluente, sarebbero morti lo stesso. Poi alla fine, se ci rifletti, no, non è vero. No, non va esattamente così. Cioè, lui fa anche in modo che l'aprano nel momento e nel modo sbagliato l'arca. Però, in effetti, se lo guardi in maniera un po' più superficiale, quel dubbio ti viene. Cioè, alla fine l'avrebbero aperta lo stesso. Sta domanda la fece a mia madre, che non seppe che rispondermi. Poi, devo dire, in realtà non ho mai amato tantissimo il Tempio Maledetto. Un po' perché l'ho sempre trovato troppo truculento. E un po' perché c'ha un'ambientazione che a me non fa impazzire, che è quella della giungla, dell'India, indiani ci fanno schifo, gli indiani, cioè non salutiamo gli amici indiani che ci ascoltano, che sì, salute, io ci parlo spesso, vivono in questi posti degradati, appunto. Esatto. Tutta questa India intorno, maggior parte degli indiani fa supporto informatico su prodotti di altissimo livello, quindi non penso strappino. Vabbè, Alex ti potrebbe dire che oggi gli indiani fanno rotoscoping, quindi anche supporto. Noi stiamo in contatto con un'azienda indiana, cioè americana, che usa manovalanza indiana per fare test nucleari. A prove di penetration test, e ci sparano, che cosa fanno? Sì, esatto, vedono se penetra o no, capito? Quindi sì, funziona il proiettile, funziona. Sì, però funziona la squadra, c'è una squadra rossa e una squadra blu, quella rossa spara, quella blu se non viene penetrata. Intanto salutiamo Girasole, che dice che non ce la fa ascoltarci, ci recupera in podcast. Ciao Girasole. Stavo dicendo, io invece nell'ultima, credo, settimana avrò parlato con 8 indiani diversi, di cui 4 di VMware, 2 Microsoft, anche gli altri 2 erano VMware per un prodotto diverso, quindi insomma c'è una... No, non penso che vadano in giro a strappare il cuore alla gente e a servire, cioè, beh, di... Vabbè, ma che c'è? Ma che c'entra, sì, dai, comunque... Questo lo dice lei. No, in realtà io poi l'amore vero è nato con l'ultima crociata, per quanto mi riguarda. Un po' perché vedere che, insomma, cioè, quando si spara ai nazisti, io mediamente sono sempre molto contento. Infatti, cioè, ogni tanto io rigioco a Wolfenstein per sparare ai nazisti, o per altri motivi. Piace il gioco. No, perché spadi ai nazisti, e soprattutto perché io impazzì per il personaggio di Sean Connery. Poi ho avuto la fortuna che quel film veramente l'ho potuto rivedere quando ero ragazzino, veramente quante volte ho voluto, perché mia madre continua a essere innamorata di Sean Connery ancora adesso, cioè tipo lei potesse, cioè, sì, lo sa, le ho spiegato, insomma. Sai, come quando di una persona che è morta, no? È ascesa, mia madre lo adora, quindi ho potuto rivedere tipo anche 2-3 volte di seguito. Sai che Indiana Jones piaceva tantissimo anche a mia madre, mi ricordo sta cosa. Che poi tra l'altro salutiamo gli amici di Revolve Radio, che giustamente ci hanno salutato nella loro diretta, giusto che ricambiare, insomma, oramai questa sodalizio, questa amicizia. E ciaone. Io ricordo, qui racconto un po' una parte che magari non tutti potrebbe far piacere, ma io comunque facevo una collaborazione attiva a Via delle Botteghe Oscure a Roma, allora era il Partito Democratico della Sinistra e ex Partito Comunista, cioè c'era stata da poco la transizione, e c'era Rinascita, c'era la biblioteca interna, insomma, del partito, dove praticamente io ogni sabato che uscivo da Bottega Oscura andavo lì e andavo giù nella parte video, compravo una videocassetta o di Indiana Jones o di Guerre Stellari o di Star Trek, con Indiana Jones, Guerre Stellari, Star Trek, Indiana Jones, Guerre Stellari, Star Trek, e poi diventava solo Star Trek, Star Trek, Star Trek, perché Indiana Jones e Guerre Stellari erano finiti. Eppure questo, insomma, è un legame, insomma, che ho con un aspetto, insomma, una parte importante di un periodo della mia vita, quindi alla fine vedi che, insomma, ogni cosa è legata a questo. Io vorrei sapere da voi, prima un po' di andare anche a vedere un po' quello che era al di là dei film, insomma, poi vediamo un po' che tipo di discussioni possono uscire fuori, qual è la cosa che fa più Indiana Jones di tutti secondo voi? Cioè, potete dire anche la cosa più banale, perché chiaramente, oppure qual è proprio la scena più iconica, la scena che proprio vi ricorderete per sempre e che magari avete provato a replicare anche in altre situazioni, anche scherzando, anche giocando. Sempre Om Shiva, Om Shiva, Om Shiva, Om Shiva. Kalima, Kalima. Però non sono riuscito a estrarre il cuore a nessuno. Ok, però sembrava più una cosa di Gig Robot d'acciaio questa, che insomma. Io partirei da Alex, però. Alex, vai tu. È difficile, perché veramente schiudo gli occhi e mi vengono in mente tantissime scene. Forse quella più iconica in assoluto è la scena del primo film, in cui c'è il Tug che gli fa tutta la scena con la spada, con la scimitarra, nel senso, passa di qui, passa di là, giro, giro, giro, giro, giro, pronto per il grande duello, e lui gli spara perché, cioè, voglio posso intromettermi? Sai che quella scena in realtà non doveva essere così? Sì, sì, lo so, è colpa della dissenteria quella scena. Ed è venuta bellissima così. Scusami, Alex. Doveva essere un grande duello spada contro frusta, solo che stavano tutti male perché avevano bevuto dell'acqua con dei germi, cagavano come dei pazzi probabilmente, o non cagavano come dei pazzi, e allora alla fine, cioè, stavano malissimo, detto dobbiamo finirla, chiudiamola. Allora Harrison Ford dice: senti, gli sparo e basta, sì vai tranquillo, ed è diventato un momento topico. Ma dal mio punto di vista l'apertura dell'arca è è un momento grandioso, ma anche la scena in cui lui cerca di sostituire l'idolo d'oro, appunto non si sa se pesa di più o pesa di meno, l'inseguimento sui carrelli nel Tempio Maledetto, che ancora oggi viene studiata nelle scuole di cinema come un momento altissimo, perché considerate quella roba lì l'hanno fatta senza il computer, cioè senza il computer in compositing, ma soltanto in motion control, per cui, cioè, nel 1981 vinse l'Oscar per gli effetti speciali iper meritatamente per 81 era? No, scusate, una cavolata, nel 83, mia colpa, 83-84, quindi l'Italia era già campione del mondo. Esatto, sono ispirato alla corsa dei carrelli. Esatto, l'Italia che è la corsa di Tardelli alla esultanza che ha fatto Indiana Jones, tu non lo sai. Da Tardelli a Carrelli è un attimo, insomma. Davide Gatti dice: no, quella dove il tizio spara al tizio con l'ascia. Sì, poi c'è Girasole che non sei ancora andato a dormire. C'è Cereal Killer, precedentemente noto come l'Altissimo, dice: non dimenticatevi la mitica colonna sonora. Quello, ci arriviamo alla colonna sonora, perché secondo me, se la colonna sonora è il logo di un film in qualche maniera, soprattutto nel cinema, dove ovviamente è una mistura, no, di suono, audio, parlato, fotografia, luce, immagine, Certo, la colonna sonora di Indiana Jones è la colonna sonora di Indiana Jones, cioè tre no, quattro note basta, capito? Cioè non è che c'è tanto da fare. Sì, devo raccontare un aneddoto a tal proposito. Beh, aspetta, finiamo un attimo sto prima questo giro, vai, certo, finisci Alex. No, nel senso ne ho tirate fuori tantissime. Ah, okay. Secondo me okay. la musica okay. è una delle vere icone assolute. Questo veramente ha travalicato il film vero e proprio. Okay. Però sì, ne parliamo dopo. Ok. Francesco, quindi qual è la scena secondo te più iconica e qual è la cosa che tu ti ricorderai sempre, che secondo te è anche proprio rappresentativa, anche sia del personaggio che del film? A me viene in mente, proprio parlando della musica, quello che per me, cioè quella scena è bellissima di per sé, ma con la musica è un duetto indissolubile che per me, cioè, basta solo ascoltarlo, vederlo che mi vengano i brividi. E quando la scena della mappa, quando viene calato giù da Salla e c'ha il medaglione col bastone dall'altezza giusta, aspettare l'ora giusta per vedere. E tutta quella parte è la parte, diciamo, in cui rientra perfettamente l'Indiana Jones studioso e l'Indiana Jones avventura, perché lì infiltrato, travestito per non farsi sgamare, no? Però è lì proprio con l'oggetto, è molto tra virgolette videogioco, anche se è più postumo, diciamo, è più i videogiochi hanno preso da lui, che ha trovato gli oggetti giusti, combinati nel modo giusto, messi al posto giusto, lui che comunque si studia, cioè rientra la parte dello studioso che ha dovuto studiare, l'ha dovuto far tradurre altro, e poi quella musica col tema dell'arca fa venire i brividi, quel è molto mistico, molto mistico, tremendo, sì, è vero. Tremendo, e poi quando alla fine si illumina e c'è il crescendo, c'è, cioè quel climax sia musicale che visivo, che si illumina tutta la stanza, è per me una cosa magnifica quella scena. Ma oggi se li sognano i film così, comunque non voglio far vecchio dalla situazione, magari saranno più ritmati, saranno più fighi, saranno più quello che te pare, però insomma sì, perché è una scena molto lenta e molto tesa comunque da questo punto di vista, perché comunque c'è Salla sopra, vengono i nazisti, dice che come cavolo, e poi è bellissimo quando Salla si ritrova che gli butta praticamente delle lenzuole con una bandiera nazista come corda, cioè molto tesa ma molto lenta, molto con questa cosa, dura quasi 4 minuti tutta quella scena, per ora sarebbe improponibile per il cinema odierno, diciamo per il cinema mainstream odierno, perché all'epoca questo è un film comunque di intrattenimento, cioè fu una sfida dello stesso Spielberg di dire no, io riesco a fare un film nei tempi e nel budget, visto che con i precedenti film aveva sforato sempre coi tempi e col budget, questo qui era riuscito a essere contenuto, ha lavorato molto d'essenzialità, perciò ogni cosa è perfetta, perché ogni cosa era essenziale, non aveva più tipo alternative, fare cose più in multicamera, le riprese di backup, cioè, ha lavorato molto proprio di essenzialità in questo film, e la cosa bella è che non si vede, cioè è magnifico com'è proprio perché nel suo essere essenziale non si vede quasi, no, infatti, che è un film a basso budget in realtà per l'epoca rispetto ai precedenti, rispetto ad altri film contemporanei dello stesso. No, in realtà non era neanche così tanto basso. Lo so, rispetto ad altri, cioè non è un film proprio di un film. Non era il super colossal, diciamo così, questo intendevo dire. Guardate, io invece poi passo a Puccio e Marco. Se penso al terzo film, che comunque sostanzialmente è quello a cui sono più affezionato, proprio stilisticamente, però in effetti rispetto agli altri due non c'è una scena, anche registicamente, che tu dici me coglioni, no? Cioè questa mi ha ricordato, tranne la scena di Marcus, no? Quando dicono, Marcus, capirai, quello parla 57 lingue, non lo prenderanno mai, no? Non lo troverete, e c'è lui mai. Che gira, no? Qualcuno con noi, con le galline, le cose, e poi entra dentro. Parla inglese. Esatto, entra dentro al portone. Qualche parola di greco antico. Esatto, e lui entra dentro al portone. Se mi fate finire di una frase, magari. No. Greco antico? Lui entra dentro al portone, poi il portone in realtà era un camion e se lo portano via, no? Cioè, nel senso, se vi ricordate un po' sta questione qui, se no, comunque, secondo me. A parte l'iconicità, voglio dire, lui, cappello e frusta, che comunque resterà, voglio dire, cioè assolutamente inscindibile proprio, tant'è che a volte su alcuni cover pure dei videogiochi o delle cose, oppure anche delle colonne sonore, c'erano soltanto gli oggetti piuttosto che il personaggio. Basta anche la silhouette del personaggio. Basta anche la silhouette, per sì. Eppure sì. Cioè, quella fedora, oltre a essere comunque, cioè, ripresa da sempre dei film a cui si ispira, perché molti protagonisti, soprattutto il protagonista di uno dei film, cioè quasi più che l'ha ispirato, diciamo, cioè il mistero degli Inca. Io tutti questi film prima o poi mi riprometto di rivederli, tipo Il tesoro della Sierra Madre, queste cose qua, che belli. Non li ho visti, non li ho visti, prima o poi mi riprometto di rivederli, proprio perché sono ispirazione di una cosa che adoro. Cioè, oltre a essere ispirato, cioè oltre a derivare giustamente da questo, la Fedora aveva anche uno scopo pratico, nel senso che visto che aveva molte scene d'azione, molti stunt, per questo motivo, cioè, si faceva sempre in modo che gli stesse incollato in testa. Lui era addirittura con una graffetta, si dice, che se lo fosse fermato, perché era più facile, cioè, nascondere il viso di dello stuntman rispetto se non l'avesse avuto, oppure se l'avesse perso. Anche se però Harrison Ford negli anni ha sempre dichiarato che lui parecchie scene le faceva lui, che infatti si faceva anche male, insomma, di solito, perché c'era questa questione che al di là delle scene che erano improponibili per lui, comunque in linea massima i ruzzoli, le cose, insomma, tendeva a farlo lui. Comunque io concludo, poi vado come si chiama, Puccio, Carmine, scusa, uso la vecchiaia, è una brutta storia. È bellissima, secondo me, cinematograficamente, anche la scena di lui quando entra nel bar in Tibet dalla tizia lì, perché cioè, lei che è girata e si vede la silhouette di lui in ombra e lei si gira e, capito, e fa quel, anche lei come si muove, no? Indiana Jones, sto pezzo di merda, capito? È quella, pure quella scena è veramente bella, cioè, raga, ma che gli vai a dire? Ecco perché io poi, e qui lo chiudo subito, in realtà, per quanto Il teschio di cristallo faccia schifo come film, io riconosco in alcune parti lo stesso genio registico che c'era nel... Poi il film fa schifo, però dal punto di vista proprio della maestria, dell'esercizio di stile, secondo me in alcune parti c'è. Cioè, è riconoscibile, c'è un cazzo da fa. Da quel punto di vista è così. Poi dopo, vabbè, insomma, capisco che... C'è sempre la famosa scena del frigorifero, che è più il fatto del non contestuale piuttosto che il fatto che la scena di per sé sia brutta o bella, che poi tra l'altro scena ripresa su Fallout dove, 4, sì, che tu incontri il frigorifero con lo scheletro dentro, vabbè, insomma, con la Fedora, c'è proprio bambino, c'è sta bambino anche in un altro, mi sembra, il bambino Ghoul, vabbè, ce ne stato due occasioni almeno. Boh, Puccio. Però sì, No, visto che stavamo parlando per l'appunto del cappello, no, cioè, tu capisci che sta veramente nei guai quando gli casca il cappello e poi lo recupera. Cioè, quelli sono i momenti di difficoltà del personaggio. Beh, come, no? nel 4, no? Il se cappello che rotola verso di lui, no? No, ma lo fa più volte. Cioè, ragazzi, mi era giusto quello. Scusa, vai, no, scusa. È quello lì, però in realtà io ho due scene che ho più in testa quando penso al personaggio, e vengono tutte e due dal terzo film, e sono la scena, tutto il passaggio che fa per arrivare al Graal, quindi la cosa fa l'uomo penitente, si inginocchia, il salto della fede, eccetera eccetera. E in più è la scena in cui stanno scappando perché la grotta crolla, ed è lo sguardo che si scambiano lui con il custode del Graal, perché tecnicamente lui dovrebbe prenderne il posto, invece lui gli fa segno di andare via, il vecchiaccio che, cioè, ci prova pure a dargli la spadata, ma poraccio. Sì, ma anche perché, tra l'altro, io mi sono sempre chiesto, però comunque lui alla fine dal Graal ci ha bevuto. E in realtà, un po', se pensate alla serie televisiva Il giovane Indiana Jones, no? Quello in cui ti fanno la backstory del personaggio, che tra l'altro è difficilissima da recuperare, però è molto bella. Io me la ricordo poco, mi piacerebbe, infatti me la riguarderei pure io, sai? Io la trovo abbastanza noiosa in realtà. Io non me la ricordo proprio. Gli episodi, però, insomma, erano anche ad alto budget, difatti per l'epoca avevano un costo abnorme, difatti fecero tipo 2 stagioni e mezzo e basta. E, cioè, tu vedi che comunque c'ha l'età molto avanzata, sarà probabilmente oltre i 90 anni, però si mantiene tutto sommato lucido bene, quindi ti viene il dubbio che in un certo qual modo il Graal un certo effetto gliel'ha fatto, è andato via, quindi non avrà la vita eterna, però magari lo ha mantenuto più giovane, lo ha mantenuto più vitale per più tempo. È il Viagra, il padre Viagra, esatto. Il padre pure è schioppato. Però non di magari ha 94 anni, non sappiamo. Così, può dire. Marco. Noi non sappiamo, no, non sappiamo esattamente, non viene detto come muore. Cioè loro ti fanno vedere la foto del padre di Marcus e dicono abbiamo perso. Si è schiattato morti. Esatto, poi non, però non, non ti dice nient'altro. Poi doveva partecipare, cioè in realtà Spielberg aveva previsto che dovesse partecipare a Sean Connery, loro solo ha detto se è solo una particina, una comparsa, cioè lui stesso autorizzò, dite che sono morto e amen, cioè se devo fare la particina del cazzo, che vengo a fare, cioè dovete resuscitarmi qui che detto che dopo aver fatto quel capolavoro della leggenda degli uomini straordinari io non devo fare più film, no, che vabbè, tra l'altro sta cosa magari ne parliamo dopo, però tra l'altro Connery nella leggenda degli uomini straordinari ha fatto Alan Quatermain, che narrativamente parlando è uno dei papà di Indiana Jones, il Cimiere di Re Salomone, sì. Io pare, cioè, una bambina che sta guardando il Teschio di Cristallo. Sì, è il mio figlio che sta pensando al Teschio di Cristallo. Vabbè, questi sono sempre la radio di qualità, insomma, la radio verità, quella verità, esatto. Ma, però per fare un disclaimer, nessun bambino è stato picchiato durante questa trasmissione, questo è importante perché magari sai, non nemmeno con altri bambini dopo, mai durante. Nemmeno con gli altri bambini, esatto, è la cosa importante. Vabbè, comunque non andiamo poi a entrare in altri topic che diventa un casino. Marco, invece a te, così poi dopo cerchiamo di parlare anche un attimo della colonna sonora. Cioè, io ho detto prima quando la palla, l'idolino. Invece la cosa che non c'entra niente, che non è la cosa, la scena che mi rimane più perché l'ho detto prima, è la cosa che invece mi ha fatto riflettere, che Indiana Jones parte perdendo. È vero. La cosa che fa è perdere con Bell'Occhio, cioè è lui vero. Parte male. Sopravvive a stento e scappa, sì, ed è costretto a fuggire via con le pive nel sacco. Ma anche sul tempio è così. Sì. Tutti perde, è un perdente all'inizio, diciamo. Eh sì, perché pure sull'ultima crociata è vero che poi la levano la croce del teschio di cristallo. Sì. Vabbè, mo' il teschio di cristallo, te devo dire la verità, veramente mi ricordo solo il cappello che rotola, non il resto ho dimenticato. Io l'ho rivisto ultimamente, è stata una tortura non solo per me, però ho detto no, io l'ho visto anche tu. No. Ma puntate sempre. Sì, quello appuntate, sempre appuntate. È stato quello forse più appuntate di tutti, neanche a farla. Forse appuntate funziona meglio. Sì, infatti, si sente meglio. Funziona meglio, sì, può essere. Funziona meglio, sì. Però è vero, hai puntato una cosa interessante. In effetti è così, lui, Indiana Jones, parte sempre come il perdente, come quello a cui viene sottratto. Tra l'altro la transizione è molto bella dello stacco del tizio che gli rimette il cappello a lui da ragazzino che lo scambio della scena che lui sta sulla nave e prende il cazzotto, no? E anche lì poi alla fine comunque ne esce sempre un po' mezzo marconcio, quindi alla fine in effetti questa è una cosa abbastanza interessante. Bene, a questo punto, dato che io non l'avevo considerata, perché a volte è proprio assurdo quando una cosa è talmente intrisa all'interno del contesto, alla fine uno tende a dire vabbè, è come se vai a Roma e dici ah c'è il Colosseo, ah sì c'è il Colosseo, ma lo vedo tutti i giorni, no? E alla fine la colonna sonora in effetti è una parte importante di questo film, anzi secondo me è un buon 30%. La colonna sonora è quella audio, Pizzi, però attenzione, la colonna sonora musicale, cioè quindi stiamo parlando del sì, ma anche quella audio. Anche quell'audio. Anche quell'audio, sì, vabbè, ma quelli, vabbè, stiamo parlando sempre di George Lucas, gente che coi suoni e con tutto il resto ci ha fatto il PIL della nazione media, insomma, quindi alla fine, cioè, se non erano buoni loro a fare sta roba e che l'hanno inventata loro poi. Quindi, però ecco, la colonna sonora è veramente, cioè la musica di sto film è veramente roba tosta, cioè non soltanto il richiamo istantaneo all'elemento, che poi ce l'ha anche Star Wars, ce l'hanno insomma bene o male tantissimi film, però Indiana Jones in maniera particolare, perché è l'oggetto fisico, cioè è richiamato proprio nel quarto film, il cappello che rotola, con il tema musicale suonato diversamente, con un tono diverso, e lì è Indiana Jones. Cioè fino a quel momento poteva essere qualsiasi altra cosa. Alex. Il tema di Indiana Jones è ovviamente uno dei è quasi come per noi italiani potrebbe essere la musicata di Canale 5, cioè è quello, è la musica di Guerre Stellari, come la musica dello squalo, sono dei momenti topici, praticamente assoluti, che hanno travalicato il film stesso. Io personalmente, ma come anche il buon Lobby Frontali, apprezzo molto di più il John Williams quando sta in minore, quando è negativo, quando vede l'impronta del male. Infatti, anche se il tema di Indiana Jones è obiettivamente un tema universale, secondo me il tema dell'arca è ancora più bello, come il tema del Graal del terzo film. Però la cosa che mi piacerebbe raccontarvi è un aneddoto che ho scoperto ascoltando il podcast The Soundtrack Show americano. Bellissimo. Che parla di colonne sonore, che appunto il buon Lobby apprezza anche lui. E nella puntata dedicata a Indiana Jones, nelle puntate, sono quattro puntate. Sì, è vero, è venuto fuori che John Williams, quando ha iniziato a scrivere la musica, in realtà ha scritto due temi. Uno era papara papara, e poi va avanti così. E poi il secondo tema è papara papara papara papara, è presente? Ecco, in realtà sottopose queste due musiche a Spielberg dicendo: oh, quale preferisci da usare nel film? E Spielberg li ascoltò, sì, tutte e due, dicendo: figata, sì, belli tutti e due, non possiamo usarli insieme. Allora Williams creò questo doppio tema, il remix, la parte remix iniziale, del il digital, lancio, poi dopo lo svolgimento. Ok, salutiamo anche Vargion, che invece ci sta seguendo nella chat di Telegram di Rette Runtime. E ha detto: scusate il ritardo, noi ti perdoniamo, perché chiaramente sai che sgorghiamo di amore per te, che sei la voce ufficiale, insomma, in realtà tutti gli speaker, tutti i jingle ultimamente, insomma, sono tutti a tuo nome. E scusa Alex, ti ho brutalmente, sì, camminato sopra. No, Serial Killer, bellissimo il nome, dice: io sono convinto che sia Guerre Stellari, Indiana Jones, di Williams o ad esempio 007 non sarebbero ciò che sono senza queste colonne sonore. Assolutamente vero. Williams è uno dei geni musicalmente parlando di questo del millennio scorso, di questo millennio, e tra l'altro un grandissimo orchestratore, cioè una delle sue grandi capacità è quella di, sì, trovare il tema giusto, ma poi di riuscire a scrivere lui l'orchestrazione, di renderla veramente ricca. E se ascoltate l'utilizzo che fa dei fiati, degli archi, è sempre qualcosa di particolarmente energico, ed è veramente la sua cifra stilistica. E soprattutto in questi anni 80, che sono stati improntati al 100% dalla New Way o dal New Hollywood, cioè essenzialmente Spielberg e Lucas, Guerre Stellari uno, Guerre Stellari e Indiana Jones l'altro, tendenzialmente hanno voluto rimettere in piedi un certo tipo di musica, di colonna sonora, che ritirasse fuori le colonne sonore di quando loro avevano 10-15 anni, cioè gli anni 50, gli anni 60, però tra virgolette modernizzate. Infatti si hanno delle orchestrazioni che sono moderne per quell'epoca, ma comunque abbastanza in contrasto col minimalismo che c'era invece nelle altre colonne sonore. Sì, che quindi praticamente Williams, Conti e Morricone, basta, cioè. Io personalmente, ma questa è una cosa mia, per me la vera musica è Basil Poledouris, che ha fatto alcune cose probabilmente non altrettanto famose, giustamente, però secondo me ha fatto tipo solo per la colonna sonora di Conan il Barbaro meriterebbe comunque un pellegrinaggio nella sua tomba, alla sua tomba. Vangelis pure mettiamoci, dai. Vangelis è morto, lo trovo, no, non so se è morto. Giorgio Moroder ha fatto tante cose, però secondo me io lo vivo, non lo so, il fatto che usasse così tanto la musica elettronica, che è invecchiata male, sì, quello è vero. Paradossalmente i momenti di gloria mi funziona di meno rispetto a Blade Runner, perché Blade Runner è un film che è nuovo ma è vecchio insieme, cioè racconta un'umanità che è ormai allo sbando, che sta arrivando agli sgoccioli, sì, e di conseguenza il fatto di utilizzare questo synth oltre all'orchestra sinfonica rende la cosa comunque stranamente retro, ed è, dal mio punto di vista, lo rende perfetto anche per questo motivo. No, vabbè, no, scusa, mi sono distratto un secondo. Sì, no, vabbè, però vabbè, dai, cazzo, Blade Runner, sì, Vangelis. Sì, è vero, perché la musica elettronica, in effetti, che poi fa molto anni 80, no? Quindi alla fine oggi la risenti. Comunque, Puccio, io lo so chi è il tizio, Serial Killer, quindi vai tranquillo, dopo te lo dico. E, no, scusa, non è che volessi sapere chi è nella rete. No, ma sì, ho capito. Se il nome veniva dal film Hackers, quello con Angelina Jolie. Tutto Francesco, lì. La colonna sonora di Indiana Jones. Deve venire anche da South Park, comunque. Sì. No, Serial Killer non era mica una mappa di Micro Machines su PlayStation 1. Anche, sì, è vero. No, io non so perché mi è scattato il link con quel film, che tra l'altro non era neanche bruttissimo. Cioè, sì, è uno di quei film che c'ha i virus in 3D con gli effetti speciali. Vabbè, raga. Oh, Boni, no, rimaniamo on topic, no, veramente, perché poi voi siete capaci, fa tre ore di trasmissione. Buonasera pure a Guest 69 qualche cosa. Sono 37. Vabbè, ragazzi, non cominciate a fare gli scemi, perché sennò poi dopo diventa difficile. Francesco. Ma questi sono i nomi di default che ci sono, Guest. Se non metti nome. Ah, devi mettere il nome, Guest 6937. Vedi dove c'è scritto. E devi mettere il tuo nome, così almeno sappiamo. Adesso mette qualcosa di indicibile, però. Adesso sceglie uno dei nomi che scegliete voi come personaggi dei GDN. Esatto, poi ci mandate le foto. Io sono io quello, sono sempre io. Beh, no, pure Marco. Che poi tra l'altro varie declinazioni ultimamente. Francesco, la colonna sono di Indiana Jones. Che vuol dire? Quello che c'hai da dire, quello che ti viene da dire. E William, che riesce comunque. Cioè, la cosa bella, la cosa che più mi. A parte che comunque, già partendo dalla collaborazione con Lucas, quindi con Guerre Stellari, scusatemi, in questo ambiente non devo dire come si chiama. Bravo, in un altro modo. Esatto. Comunque è molto ispirato a quello che è, diciamo, a compositori di colonne sonore storici come Max Steiner, Korngold, Waxman, Bernard Herrmann, e quindi riprende questo concetto, queste sonorità neoclassiche, diciamo, e le traspone anche comunque in Indiana Jones, però di volta in volta prendendo ispirazione anche da quelli che sono i temi, cioè gli ambienti che si vanno a i luoghi che si vanno ad esplorare, ma soprattutto c'ha dei temi ben precisi. Per esempio, ripeto, anche come ha detto prima Alex, anche a me quando vai in minore è quando per me dà di più. E per esempio ci sono dei temi proprio che sono caratteristici, come quello dell'arca, ma ancora di più quello dell'arca mi mette prima, anche quello lì del Graal che in particolare nella scena che ha detto che ha citato anche Puccio prima, di quando c'è il cavaliere che li saluta lì, quando carica tutta il Brown e si vede lui quasi disperato, cioè mette una tristezza, cioè davvero è commovente, perché davvero invece, cioè, dopo centinaia di anni ha visto per 5 minuti degli altri esseri viventi che se ne va, e lui comunque è destinato a capire che ormai, cioè, ormai lui è destinato a rimanere lì e a morirci chissà quando, senza il Graal, diciamo, immediatamente a disposizione. È un po' come di cazzo, sono venuti quelli a darmi il cambio e invece da pindersi. No, però hai ragione, grande scena anche quella, anche se secondo me non gli è riuscito a dare quella, come posso dire, quella sacralità, quella misticità, insomma, che meritava in qualche maniera. Alla fine quasi risulta un po' ridicolizzato quel poro cavaliere là, insomma, che sta lì, sembra un coglione, insomma. E Puccio. Io tendenzialmente non ho mai avuto grandissimi rapporti d'amore con le colonne sonore, un po' perché, cioè, tolte quelle gigantesche, tipo appunto quella di Indiana Jones o quella di Guerre Stellari, a volte, vi dico la verità, fatico a ricordarmele e mi rendo conto che più passano gli anni. Persona brutta, no, mamma no, mia, no, oh. Cioè, a parte quelle proprio colossali, tipo appunto questa, quella di Guerre Stellari, quella di Blade Runner. Vi farò ridere, quella di Tron, non so perché me la ricordo. Beh, era gran colonna sonora. Sì, di Wendy Carlos. Cazzo. Sì, in realtà mi sono reso conto di questa cosa, che più passano gli anni, più guardo i film e non mi ricordo le colonne sonore. Tipo io, il tema degli Avengers, non te lo saprei fischiettare. Però, devo dire, questo caso veramente fa eccezione, tant'è vero che io mi andai a comprare i CD delle colonne sonore. Come ciò, e ce li ho ancora, c'ho un cofanetto con i CD delle colonne sonore, di all'epoca solo dei primi primi tre film, con dentro c'era un photobook anche abbastanza ricco con foto di scena, tra cui appunto la famosa scena della dissenteria con lo sparo al tipo armato di spada. E per un po' me li sono portati dietro anche in macchina i primi anni che guidavo e che avevo il lettore CD in macchina. Ci sono legato, ci sono affezionato, me le ricordo sempre, però più che il tema principale è la musica del finale del primo film che mi è rimasta forse più in testa degli altri. E aiutaci. E non te ne sei, non mi chiedere di cantare, andatevelo a vedere, poi ve lo linko da YouTube. No, vabbè, sì. Io, a me è stato proibito, cioè c'ho proprio un c'è un decreto ingiuntivo che mi proibisce di cantare. Immagino, Marco. Marco Gualdi. Ma dici il tema dell'arc, quello lì. Sì, il tema dell'arc, quello che ah, vabbè. Sì, sì, è di un inquietante. Meno male che c'è, meno male c'è Gualdi e ce lo canta, siamo proprio. Che fa beatbox in questa maniera. Vabbè, Gualdi, dici la tua no, sulla che devo dire? E che c'è da dire? Che cazzo ne so io che c'è da dire? Ma è stato detto tutto, cioè che devo dire? Niente, bellina, bella canzoncella, dai. Bella canzoncella. No, ma magari no, sì. Io volevo dire qualche cosa sugli invece sul non so se poi dopo c'è nella scaletta di parlare del sound design. Ma quale scaletta? Io volevo dire una cosa. Vai, vai, parla direttamente del sound design, così non poi non ci possiamo permettere neanche una scaletta. No, io invece volevo soltanto dire un suono che per me è il suono dei cazzotti. Cioè tutti dovrebbero. No, ma che no, c'è cioè un suono, suono dei cazzotti. Proprio tipo quello di Bud grave. Spencer o meglio? No, più grave, più basso, cioè ah, più... è inconfondibile. Se tu senti il cazzotto di Indiana, che in generale del film di Indiana Jones, c'hanno sempre lo stesso timbro ed è unico. Io non l'ho mai sentito in nessun altro film. È fantastico. Però forte proprio, basso. Alex? Sì. La frusta. Sì. Io la frusta, i cazzotti non mi ricordo, te lo dico la verità, non mi ricordo. No, cioè non sono fantastico. E lo so, però non, purtroppo in questo momento non mi viene in mente. Buccio? No, la frusta anch'io. Sì, alla fine, oh, ragazzi, perché poi è un suono molto pulito, molto classico, no? Però è comunque ben lavorato, cioè nel senso c'è cioè un gran sound design. Tra l'altro mi spiace, se fosse stato Carlo magari ne avremmo potuto anche parlare di questo aspetto, insomma, del infatti se ci pensi cioè Indiana Jones non c'ha, non è Guerre Stellari, non c'ha moltissimi suoni, no? Però quei pochi che ha ti rimangono in testa, non li confondi con altri. Beh sì, è comunque un bel connubio, anche come diceva Francesco prima, tra suoni e musica in maniera particolare. Vabbè ragazzi, facciamo così, io direi, perché insomma alla fine uno non può parlare di Indiana Jones. Ah, stavolta la metti quella alla buona, non metti quella proprio. Quella cosa che ho messo, ma l'ho messa apposta. La... Ciao, si hai. Io penso in generale Indiana Jones sia forse il tipo di film in generale che si addiceva di più a quello che faceva George Lucas dall'altra parte, nell'altra stanza dello Skywalker Ranch, là dove alla fine nascevano questi sogni, prima da una parte e poi dall'altra, poi da una parte all'altra, dall'altra da una parte, perché io penso che alla fine tra le due avventure grafiche realizzate sul mondo di Indiana Jones, una in particolare è secondo me forse la più bella avventura grafica realizzata da Lucas stesso, insomma da Lucasfilm, LucasArts Games, perché se comunque i Predatori dell'Arca Perduta, no, se l'Ultima Crociata comunque in qualche maniera era figo perché era post Monkey Island, aggiungeva animazioni, c'era Indiana Jones, ti potevi immaginare le situazioni, ti potevi immaginare le inquadrature anche un pochino, no? Perché era Indiana Jones, ragazzi. Però poi c'aveva comunque quei difetti un po' strani che che dovevano aggiungere un po' di action all'interno dell'avventura grafica, ed erano sicuramente le parti meno riuscite, mentre che Fate of Atlantis secondo me è un capolavoro. Sarebbe stato, come dicono in tanti, no? Tutti lo dicono, ah, ma doveva essere il quarto film, in realtà non sta scritto da nessuna parte sta cosa, però avrebbe potuto esserlo e sarebbe stato anche un bel film, ma sicuramente è stata un'avventura grafica meravigliosa. Una cosa che però bisogna dire, e qui voglio sentire un po' il parere di tutti, anche magari Alex per quello che ha carpito, che sa, perché magari oramai non gioca più da tanto tempo, è che i giochi di Indiana Jones in generale hanno subito degli alti e bassi terrificanti, cioè nel senso è uno di quei franchising che dal videogioco ha ottenuto tanto e ha ottenuto un sacco di merda, perché comunque io ricordo dei giochi action addirittura proprio di Lucas stesso, insomma, no, che facevano abbastanza un po' schifo. Non so, da chi vuole partire in questa disamina relativa ai videogiochi? Puccio. Posso? Prego Marco. No, meglio Marco. Marco, vai Marco. Perché io tanto vi sto condividendo una scazzottata tipo di Indiana Jones su l'unico forum. Toh, così. Adesso lo metto qua, spero che così sia la parte giusta. Sì. Una delle mille chat. Secondo me, l'unico gioco che ho giocato io di Indiana Jones non è un'avventura grafica, perché sai che le avventure grafiche mi annoiano fondamentalmente. Ah, vabbè. Non mi piacciono. Vabbè, sti cazzi, vai avanti, non te devi giustificare. Ho giocato un gioco che tutti quanti, ovviamente, perché non è un'avventura grafica, considerano una merda, che è, cioè, La tomba dell'imperatore. Bella merda. Io mi sono divertito tantissimo. Diciamo. Ma per te divertivi, perché il gioco era ridicolo, per quello ti divertivi. No, perché era figo, cioè mi piaceva. A parte la scena del reshow, che è quella effettivamente è ridicola. Però per il resto io mi sono divertito tantissimo con quel gioco. Lì sentivo l'Indiana Jones, c'erano i cazzottoni. Te che tu sti cazzotti stavi a rota proprio. Bellissimo, esatto. Cosa ti ricorderai di Indiana Jones? Poi gli cascava il cappello, lui poteva raccogliere, capito? Se no, poi dopo se andava in giro senza cappello, era fantastico, la frusta, le pistolettate, bellissimo. No, niente, non è che mi ricordo qualcosa particolare, l'ho giocato 15 anni fa, ma che cazzo se lo ricorda? Cioè, di che anno è sto gioco? Ma c'hai avuto 2-3 settimane di tempo, ma andate a rivedere qualche video su YouTube e cercate di ricordarti qualche cosa. 45, insomma. 2003, di 14 anni fa, no, che cazzo dico, di 17, 18 anni fa quasi. No. Sei abbastanza inutile quando te poni in questo modo. Vabbè, Puccio. No, scusate, perché mentre sentivo Marco mi è venuto in mente che proprio, se vogliamo fare un paragone, anche i videogiochi di Indiana Jones hanno il loro teschio di cristallo, però secondo me è La macchina infernale più quella è bella merda, bravo, hai ragione. Bella merda, hai ragione, scusa, cioè, bella merda. Tra l'altro io ce l'ho avuto per Nintendo 64, bella PC, merda, ho scoperto che sta su Steam e anche su GOG, perché ho cercato mentre parlava Marco. Quindi se volete rivivere questa esperienza assolutamente meravigliosa dell'action con Indiana Jones dopo anni di avventure grafiche, e quindi capire che nonostante sia un personaggio d'azione, metterlo nei giochi d'azione forse non era un'idea tanto brillante alla Lucas, ci avevano visto, potete sperimentare questa fantastica esperienza andando direttamente su Steam o su GOG. Nota, qualche anno fa mi sono comprato il libro sulla storia della Lucas, quello illustrato, dove oltre che esserci le immagini dei vari giochi prodotti dalla Lucas su Indiana Jones, ce ne sono alcune tagliate, prevalentemente artwork, perché ovviamente non hanno portato quella roba in pixel art e la cosa è rimasta su carta. Però da quello che ho letto, da quello che si sa, c'erano progetti in corso per continuare la serie delle avventure grafiche, inserendo nuovi elementi nella storia, nuovi personaggi, però pare che sia stato Lucas stesso tempo fa a stroncare le velleità degli sviluppatori dei videogiochi, perché comunque si pensava di dare un seguito alle avventure di Indiana Jones, un seguito canonico a differenza di quello che avveniva all'interno delle avventure grafiche, e decisero di aspettare. Poi hanno aspettato troppo, poi sono usciti due giochi action, poi è uscito il regno del teschio di cristallo e le cose sono andate come sappiamo, andate. La storia ci racconta come sono andate. Tra l'altro scusa, ti interrompo, poi con uno. Ti interrompo un attimo solo al volo, ricordando che su The Fate of Atlantis, e ritornando a quello che ha detto Marco prima, anche lì inizia con lui che perde. più o meno, no? Perché Smith, sì, il tizio lì che arriva, uno che si chiama Smith con l'accento tedesco, e tu dici, ma sì, ma non sarà una spia tedesca, no? Che cazzo ci frega? È biondo, si chiama Smith, che, esatto, cazzo può essere? Che parla così, professor Jones, è tutto a posto. Vabbè, dai, scusa. No, stavo dicendo, io probabilmente il gioco a cui sono più legato anch'io è The Fate of Atlantis. Tra l'altro veramente ci ho impiegato un'infinità a finirlo, perché lo finì io con Alessandro, con mio cugino, assolutamente privi di guida, andando tentativi per tentativi. Sì, la parte d'Atlantide era ignorante, che era pure labirintica, la parte in cui devi mettere l'oricalcum nella spira di metallo, sì, che poi si riscalda e poi fa evaporare l'acqua, quella veramente ci siamo rotti il cervello per capire. Vabbè, cioè non è che siamo due scimmie, né io né lui, però insomma, cioè, no, diciamo che fino a Atlantide ci arrivavi, Atlantide diventava veramente complicato, insomma. Io c'ho solo una cosa che ricorderò bestemmiando quelli della CTO quando lo importarono in Italia, è la scena di quando lui praticamente parla col tizio che sta a leggere il giornale e gli dice, ah no, che lui va a leggere il giornale e dice, vediamo le notizie sportive, cosa ha fatto la Juventus ieri. Ma vaffanculo. Vabbè, se era la Lazio scommetto che andava. Ma no, no, è la stessa. Ma no, dai, ma che cazzo c'è? Indiana Jones ha Juventus. Ma poi nell'anno. Sì, no, dai, ma vaffanculo, su. Vabbè, c'era stato chissà quante volte in Italia, magari si era appassionato. Alla Juventus, certo, in un giornale in America stavano a vedere quello che faceva la Juventus. Scusami, no, però scusa, se lui è stato in Italia, sicuramente sarà stato a Torino, perché c'è il Museo Egizio, una delle migliori facoltà di archeologia del mondo, magari si è appassionato di calcio. Beh, forse non vi ricordate la scena, esatto. Comunque dai, era ridicolo. Sì, dai. Te la ricordo, effettivamente. Okay. Si scherza. Riprendendo il discorso, in realtà ho trovato quel gioco avrebbe dovuto anche essere molto più grande, ha subito dei tagli in fase di sviluppo perché avevano paura di fare troppi dischetti e quindi accorciarono il gioco, da quello che ho letto io, di un buon 25%. Beh, erano 11 dischetti. Quanti, Francesco, tu te lo ricordi? Quanto era Fate of Atlantis? Un CD. Ah, tu c'avevi il CD, ok. Sei giovane. Noi ci siamo fatti gli schetti. Ma forse, mi sa che, ma forse lo sapete che, però, forse Fate of Atlantis non è mai uscito su CD. Sì, boh, non mi ricordo. Io ci ho giocato. Sì, sì, sì, anche con la versione Talkie. Sì, sì, sì. Ah, ok. Sì, c'era anche quella col parlato. Che tra l'altro il doppiatore, cioè, ovviamente non è Harrison Ford, però cavolo, è praticamente identico a Harrison Ford come voce, come impostazione, come, cioè, ci caschi proprio. Sapete chi fa benissimo la voce di Harrison Ford? Alvaro Vitali. Mark Hamill. Andate a vedere le interviste in cui fa la caricatura di Harrison Ford e parla come lui, è indistinguibile da quello. Ma Mark Hamill ha fatto una carriera più come doppiatore che come, come attore. È stato Luke Skywalker, poi basta. Sì, no, beh, ha fatto diversa altra roba, però prevalentemente ha fatto il doppiatore sia nei film d'animazione, nei videogiochi, tantissimo. No, lui è storicamente la voce di Joker, quindi. Ricordiamo anche cosa? Gabriel Knight, il primo Gabriel Knight, sì. C'era lui, quindi vabbè. Ok, vabbè. Come non citare Wing Commander? Come non citare Wing Commander? Dove, tra l'altro, secondo me lui era anche un gran figo lì, soprattutto nel secondo, quindi il quarto praticamente, per capirci. Sì, ma lui c'ha il problema fondamentalmente che è un nano, è basso, sì, è vero. Questo brutto, però è. No, però secondo me lui su Wing Commander, invecchiato già abbastanza, io ti devo dire la verità, non con la voce molto profonda, perché comunque era uno che comunque la voce la sapeva lavorare, no? E quindi alla fine era figo, a me piaceva, cioè nel senso, poi vabbè, era Mark Hamill, ragazzi, cioè nel senso, anche se tu l'hai visto solo una volta, era comunque Luke Skywalker in un film, cioè in un film videogioco di fantascienza. Alex, no, tu invece se siete proprio feticisti, sta anche in un film giapponese che era la versione live action di un manga che si chiama Gyver, basato sulle armature, fa tipo, non mi ricordo se un poliziotto americano in trasferta in Giappone, cioè fa un ruolo completamente fuori di testa, non lo so. E vabbè, poi sta nei film di Kevin Smith dove fa se stesso, però ne ha fatti in effetti, pensandoci. Beh, sì, no, vabbè, comunque uno che ha lavorato, devo dire, poi sarà stato grazie in Guerre Stellari o sarà stato, perché comunque alla fine sarà stato anche bravo, perché come caratterista e doppiatore ha lavorato tanto. Alex, tu invece dei videogiochi di Indiana Jones, che ti ricordi, che rapporto c'avevi, che te ne fregato un cazzo? Beh, ovviamente le due avventure grafiche, quelle con la G maiuscola, che sono appunto L'ultima crociata e Fate of Atlantis. Che ricordo, cioè, L'ultima crociata l'abbiamo, come ho detto prima, la stiamo rigiocando, avevamo iniziato a rigiocarla mia moglie durante il lockdown, gliel'avevo regalata su GOG e collegavamo il computer al videoproiettore in modo da poterlo vedere con 88 pollici una risoluzione terrificante con i pixel grossi come un pugno praticamente. Esatto. Devo dire che per certi versi mi è sembrato invecchiato abbastanza malino, soprattutto nella struttura di gioco, nel senso il fatto che tu abbia 50.000 verbi, devi provarli tutti, cioè certe cose sono un po', sono invecchiate, certe dinamiche. Probabilmente gli hardcore gamer diranno: non capisci un cazzo, no, quelli no, si capiscono i tempi, adesso no, tutta merda. No, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Ma ripeto, dal punto di vista grafico non c'è nessun problema per me, quella era allora e così, invece la giocabilità la trovo un po' più faticosa. Fate of Atlantis non lo ricordo, cioè nel senso da allora non l'ho più rivisto, per cui non so, però mi ricordo effettivamente la grandiosità e l'amore con cui queste cose erano state fatte, perché sì, partivano dal videogioco, dall'ultima crociata, era una sorta di racconto quasi parallelo per certi versi, che metteva più il peso su alcune parti della storia e meno su altre, è come se fosse una sorta di racconto alternativo, sai quando racconti le fiabe che a un certo punto cominciano a cambiare, ecco, era stata una sorta di evoluzione però fatta nel completo e totale amore e rispetto del personaggio. Queste cose qui, soprattutto in quegli anni dove i videogiochi sì, venducchiavano, ma erano comunque una briciola, una scoreggia rispetto agli altri mercati, quello della musica e quello del cinema soprattutto, cioè faceva sì che la gente più che pensare a un prodotto da vendere, pensava comunque a un'opera da costruire, almeno io la vivevo in questo modo. Non sto dicendo che adesso è meglio o peggio, per certi versi probabilmente oggi è anche meglio, e il fatto che ci sia un'industria rende tutto un po' più fruibile, gestibile. Non avremmo oggi senza un'industria Grand Theft Auto 5 oppure Last of Us, per cui sono ben contento che ci sia questo, però di allora si ricorda effettivamente il manipolo di 3-4 persone che facevano veramente un gioco del genere, lo facevano spremendosi fino all'ultimo. C'è al 9000 che dice che lui aveva un gioco originale su C64 di Indiana Jones. Io non ricordo, su cassetta non ricordo onestamente un gioco per C64, forse era Jungle Hunt, quelli là, insomma, magari quelle che sembravano Indiana Jones. Era Pitfall. Che no, infatti Lord Nikon giustamente ci dice, Pitfall era ispirato a Indiana Jones, vabbè, ma tanti giochi, raga, allora erano ispirati a Indiana Jones. Forse Indiana Jones, no, c'era anche L'ultima crociata di Action Game, che è uscito anche per Commodore 64. Sì, poi c'era pure per Game Boy, mi ricordo, insomma, una cosa terrificante pure quello, insomma, era un platform abbastanza terrificante. Poi il primo dei giochi è proprio quello lì, il tie-in dei Predatori all'Arca Perduta, che fu sviluppato dall'infamoso, come si chiama, là, Howard Scott Worship, quello che poi fu costretto quasi a fare E.T. dice sì ce la faccio in così poco tempo, ma quella fu la maledizione di quel gioco, sì, che lo costrinsero a farlo proprio perché venne piuttosto bene per l'epoca, diciamo, concordiamo con archetipo di Zelda, quasi concordiamo con Lucio Plantone, che giustamente dice che il terzo, la versione action del terzo Indiana Jones in effetti era abbastanza una bella schifezza, in effetti, cioè, ma era un platform poi venuto male, sai quelle cose, come tanta roba legata ai film che devono uscire de corsa e uscivano fuori delle zozzerie improponibili, chiaramente, ma questo è chiaro. Per il resto, insomma, io non ho una grande memoria di cose dedicate a Indiana Jones, che forse da questo punto di vista anche meglio, è stato abbastanza preservato, no? Perché io ricordo prevalentemente. Ci sono stati tanti giochi. Infatti, appunto, dico. In per questo dicevo, cioè, nel senso, è stato abbastanza preservato, perché poi alla fine c'è il rischio di fare cagate su quello che poi alla fine era un franchising abbastanza importante. Insomma, ci poteva stare. Invece, Buccio. altre incarnazioni di Indiana Jones che non sono strettamente, a parte la serie televisiva di cui abbiamo già parlato, però libri, fumetti, cose. Sì. Allora, prima di tutto, Indiana Jones in Italia è arrivato quasi tutto quello che è stato scritto a livello libresco. Innanzitutto partiamo da una cosa: Indiana Jones, ne stavo parlando prima, nasce come omaggio a un certo tipo di cinema che erano, diciamo, i film speciali che venivano trasmessi nel weekend, i film d'avventura nei cinema americani, quelli, diciamo, immediatamente del secondo dopoguerra, mi pare. Però in realtà Indiana Jones di papà ce ne ha tanti, di figure a cui si è ispirato ce ne ha diverse. Una di questi è Alan Quatermain, che è il protagonista di una serie di romanzi scritti da un autore inglese, Haggard, personaggio che poi abbiamo ritrovato di recente reinterpretato da Sean Connery in un film atroce, che è La Lega degli Straordinari Gentiluomini, scritto da una serie a fumetti bellissima scritta da Alan Moore, che è The League of Extraordinary Gentlemen. Da dire, prende con Quatermain, c'è, cioè, in comune la passione per l'archeologia, il fatto di essere eroi di azione. Per il resto si somigliano ben poco. Quatermain non è un professore universitario, interpretato da Richard Chamberlain. Sì, è una delle protagoniste femminili era Mary Poppins, tra l'altro, che però era con una specie di bikini africano che ti fa dimenticare che ha fatto anche la tata inglese quando la vedi. Julie Andrews, scusate, non mi veniva il nome. Io poi, diciamo, poi l'associo più che altro a Mary Poppins, però in effetti quello è stato uno dei film più visti che ha fatto. Dicevo, Alan Quatermain gli somiglia fino a un certo punto, perché comunque, diciamo, è un personaggio tendenzialmente razzistello, è tipo uomo bianco colonizzatore. In Italia abbiamo avuto la fortuna di avere praticamente tutti i libri game scritti con Indiana Jones come protagonista principale. Uscirono per Mondadori tra gli anni 90 e i primi anni del 2000. Ce ne sono, ad occhio, in Italia ne hanno pubblicati 25 su una trentina che sono usciti. Li trovate anche abbastanza facilmente su eBay, però, diciamo così, sono beta, non è roba particolarmente interessante. Un po' più interessanti sono i libri considerati non canonici, ma comunque molto molto belli, quelli che si trovano sono ambientati dopo l'ultima crociata, che sono La danza dei giganti, I sette veli e Pericolo a Delfi, scritti tra l'altro da autori di un certo livello, tra cui McGregor, che è un autore che di solito fa i libri in cui vengono raccontate le trame dei film, però spesso fa anche produzioni sue abbastanza interessanti. Questi non si trovano facilmente, ma neanche se vi mettete a piangere su eBay. Li ha pubblicati da Sperling e Kupfer, dovete avere molta fortuna e trovarli nei mercatini dell'usato, e ovviamente fare finta che non vi interessano, so, ve li fanno strapagare. Non mi è mai capitato di leggere i romanzi presi dai quattro film principali, semplicemente perché l'ho sempre trovato una roba abbastanza inutile, però mi dicono. Infatti, io non ho capito fare il libro del film che è uscito al cinema, è una cosa che non lo capisco. Cioè. Sì, neanch'io. Però mi dicono tutti quanti che in realtà il romanzo del Regno del Tasco di Cristallo, scritto da Rollins, che è un autore young adult abbastanza quotato, sia in realtà molto, molto bello. Che è young adult? Young adult è una tipologia. No, aspetta, voglio romanzi. Che me lo spiega Alex. Alex, spiegamelo tu. Hunger Games. Ah, ok, va bene. No, è un genere letterario che indica narrativa per ragazzi un po' cresciuti, oppure per un sacco di adulti che si pensano essere ragazzini, per cioè lo step successivo alla dinopera, Harry Potter, okay. Twilight, okay. Sì, stiamo proprio dicendo la crema della crema. Non sono d'accordissimo. Twilight sì, anche se in realtà Twilight all'inizio pare che dovesse avere altri toni. Vabbè, cioè, però comunque mi state a dire che è lo step successivo alla dinopera, praticamente. Sì, questo no, sto parlando della letteratura adesso, non tanto dei film. No, ma Harry Potter è stato la prepista, perché sì, è un libro per bambini, ma tutti i suoi livelli di lettura, tale per cui anche gli adulti, io lo adoro, i libri di Harry Potter li adoro, sono apprezzabili. Cioè, se tu lo leggi come un bambino, lo leggi una cosa, se tu leggi come un adulto, leggi un'altra cosa. Cioè, trovi i cazzi. Okay, forse è esagerato come cosa, però lo young adult è, appunto, effettivamente Hunger Games, Twilight, quella roba lì. Ok, ok, ok. No, vabbè, era perché ma al di là dei romanzi che tanto non legge nessuno, ma i fumetti, ci sono fumetti su Indiana Jones? Ok, sì, i fumetti ce ne sono parecchi. Allora, ci sono ovviamente gli adattamenti dei romanzi principali. C'è un bellissimo adattamento di Fate of Atlantis, che però purtroppo in Italia non si trova più, però lo trovate tranquillamente su Amazon in inglese. Okay. Poi magari vi metto i link. Allora, se qualcuno ce l'ha in italiano, lo scannerizzi tranquillamente. Devi essere molto fortunato. Pago io. Credo abbia pubblicato tipo la Play Press inizio anni 2000, e generalmente la roba che pubblicava quella casa editrice non sopravviveva molto al tempo. Cioè, se apri un po' troppo le pagine te restano in mano. Quindi non so se qualcuno ce l'ha ancora, grazie. Scansionatecelo, se no lo trovate agevolmente in inglese su Amazon. C'è però un racconto di Indiana Jones molto molto bello, edito in Italia, che in realtà si intreccia con Guerre Stellari. In pratica, non lo voglio sapere, non mi frega niente, andiamo avanti. Io racconto, perché dove io sofferto dovete farlo pure voi. Quindi ma se tu sei scemo, tu compri e guardi tutto, cioè, che merda, per portare un minimo di interesse nella trasmissione dal punto di vista di ve la racconto. In pratica, in una delle opere a fumetti di Guerre Stellari, il Millennium Falcon si ingrippa, precipita sulla Terra, Han Solo muore nell'impatto, in realtà non proprio nell'impatto, un po' dopo, e viene tumulato sulla Terra da Chewbacca. Come sapete, i Wookiee tendono a vivere molto più degli esseri umani, vivono più di mezzo secolo, e qualche secolo dopo Indiana Jones, che sta indagando sul Bigfoot, che si scoprirà essere Chewbacca, trova la tomba di Han Solo e il Millennium Falcon vigilata da un ormai anziano Chewbacca. Ma vattene a fanculo, va, mortacci vostri, chi è che ha scritto sta porcata? Tra l'altro lui vede il cadavere di Han Solo che è conservato, e capisce che si somigliano. Tutta una roba terrificante. Grazie per averci seguito. Pizzi ha chiesto di non dire bestemmie, ma mi togliete il microfono. Io ho fatto partire la sigla. Io poi vi giuro che ve la giro, perché c'ho la scanna. Ma anche no. Ma no, ma lascia perdere. Perché tu soffri io da solo. No, ho capito, devi soffrire, perché sei tu che te le vai a cercare cose, scusa. Mica infatti, perché devi soffrire. No, poi mi avete detto, io guarda, i libri, i fumetti, e io ho trovato. Ma quello che sai, non quello che devi andare a cercare. Cioè, non è che devi comprare fumetti obbrobriosi per... Soprattutto quello che non dobbiamo sapere noi. Esatto. Vabbè, ragazzi, c'è, cioè, in realtà un'altra cosa, però ve lo consiglio perché si trova, e si trova anche facilmente in italiano, c'è una versione a fumetti di Indiana Jones and the Infernal Machine, che ti rendi conto che in effetti la trama di quel gioco non sarebbe stata male se non ci fosse stato il gioco in mezzo. Tutto qua. Eppure sai che Diduz di Lucas Delirium ci è affezionato a quel gioco, cioè ne parla sempre bene pure nelle sue Diduz è di Bari come me, quella deve essere qualcosa nell'acqua che ci porta ad apprezzare queste cose. Ah, poi una cosa, tu che sei esperto, io mi ricordo da bambino l'avevo comprato mio fratello un volume di un fumetto di Indiana Jones, mi ricordo che però avesse... Me lo sfogliavo sempre, poi avevo 5-6 anni, non l'ho mai davvero letto, poi non l'ho mai più rivisto, che era pure, cioè, mi ricordo avesse pure delle pagine strappate, e mi ricordo e appiccicate anche. No, appiccicate no, quelli sono altri tipi di libri che trovavo appiccicati di solito nei parchi. Ma come nei parchi? Anche nei parchi, tutto. Questo libro praticamente era dalle mie reminiscenze raccontava, dice, di Indiana Jones che andava a recuperare l'idolo d'oro, praticamente. Quindi è un sì, ma c'è, un se volete lì. sì c'è un omnibus, se volete, c'è un omnibus dei fumetti di Indiana Jones, cioè, se non mi sbaglio, è della Dark Horse. Quindi non lo cercare sotto Omni, però vi dirò di più. C'è stata una collana italiana assolutamente pirata di fumetti disegnati da autori italiani, scritti da autori italiani, con avventure ipotetiche di Indiana Jones. Io l'ho scoperta sta cosa quando, durante una Lucca di tanti anni fa, fecero una serie di interviste agli autori della Bianconi, quelli che pubblicavano Braccio di Ferro, Nonna Belarda, Tiramolla, eccetera eccetera, e uno di loro raccontò: io ho disegnato storie di Indiana Jones assolutamente pirata, uscite per una casa editrice che non esiste più, firmandoci con nomi inglesi e americani, perché tanto non veniva a controllare nessuno, Indiana Jones come prodotto vendeva bene. Bene, bene, bene, bene. Ragazzi, sentite, io direi che a questo punto più o meno, no, abbiamo tanto, in realtà era anche legato un po' alle nostre emozioni, le nostre comunque concezioni riguardo a quello che è. Concezioni è un po' di niente, però forse è l'ictus che sta arrivando. Io partendo da Alex a rotazione, quindi Alex, Francesco, Puccio e Marco, vorrei che concludeste questa puntata con un qualcosa che avreste voluto dire e non abbiamo detto, o comunque un pensiero finale sul tema di Indiana Jones che comunque è pregno e ci siamo molto legati. Vai Alex. Allora, credo di aver detto abbastanza tutto, nonostante sia uno dei miei film preferiti, una delle mie saghe preferite, devo essere sincero, nel mio cuore c'è più Guerre Stellari rispetto a Indiana Jones, ma siamo lì appunto nell'Olimpo, nell'Empireo, nell'iperuranio per dire. E uno però, devo dire la verità, mentre mi sono sempre immaginato quando ero bambino di andare nelle stelle e combattere sulle navi spaziali, Indiana Jones l'ho sempre vissuto come una cosa che era lui ed era bellissimo che ci fosse, e non volevo essere io, per cui è una cosa faticoso essere Indiana Jones, sì, assolutamente, bisogna proprio farsi un gran culone. E però aggiungo dicendo che, avendo rivisto quei soli tre film che sono usciti recentemente, comunque sono dei gran bei film. E come avete detto tutti voi, le riguardi a oggi e dici: cazzo, che bello spettacolo che ho visto. Fatti. Anche il minore, diciamo, il fratello minore, il Tempio Maledetto, che secondo me un cazzo di film comunque. Esatto, comunque visto con gli occhi di un adolescente probabilmente aveva un sapore diverso, visto con gli occhi di un adulto è un film più adulto per certi versi, sì, magari anche un pochettino più d'orrore, però ha un tono più diverso, è come se fosse indirizzato a un pubblico di differente, per cui lo si può apprezzare più adesso rispetto a quando eravamo bambini o ragazzi. Questo è il mio punto di vista. Detto questo, cioè Love, ecco, metti la musica occhi a cuoricino. Love, è vero, hai ragione. Francesco. Allora, innanzitutto mi aggancio prima a una cosa che ha detto Alex adesso. È stato fatto quasi di proposito, più cubo, perché per rispettare anche l'ha voluto Lucas questo, perché anche la trilogia originale di Guerre Stellari prevedesse che il secondo era quello lì più cubo, diciamo, ed è stato anche così con Indiana Jones, quindi è stata una cosa voluta. Poi una cosa che volevo dire, scusa, posso aggiungere una cosa? Sì. Mi è venuto in mente la scena iniziale del Tempio Maledetto, quella dove loro si svolge nel night club dove la tizia club canta, Obi-Wan. Loro, esatto. Club Obi-Wan. E loro si riparano dietro il gong che ruota. In realtà era pensato per essere utilizzato nel primo film, solo che non sapevano poi dove infilarla. Teniamocela lì per un altro film, e l'hanno infilata poi come prima scena del film successivo. Per cui le sceneggiature dei primi film, nonostante fossero veramente complete e ricche, hanno vissuto grandissimi rimaneggiamenti e riposizionamenti, cose che sono state scartate per poi essere ripescate dopo. E questo è stato valido anche per Guerre Stellari. La prima sceneggiatura di Guerre Stellari era completamente diversa, c'era dentro pezzi che poi sono andati a finire in tutt'altre trilogie. Vai Francesco. Riprendo io. Una cosa che non sono riuscito a dire è che, a parte dei videogiochi, non mi ha fatto proprio parlare, quindi me vendico adesso. Ah, scusa Francesco, vai. Sì, tranquillo, ho giocato essenzialmente solo alle avventure grafiche, ho giochicchiato tramite emulatore un Indiana Jones Greatest Adventure, che è sempre una cosa a scorrimento d'avventura su Super Nintendo, che riprende un pochino tutti e tre i film, bella merda. E quello che ovviamente anche io so quello che preferisco, perché per me è davvero quello il capolavoro della Lucas, tutto sommato, per quanto per me Grim Fandango, cioè ci sono rimasto, per me il gioco più bello, certo, che è stato mai fatto, cioè, perché ci sei legato, anche se non è così, cioè il mio preferito, non il gioco più bello, cioè Indiana Jones, cioè lo vedo e dico no, è lui, però effettivamente il più bello che hanno fatto, come per me è stato The Dig, non perché sia il più bello, ma perché sì, è quello a cui sono legato, sì. Sì, però c'ha una peculiarità, e come si chiama, l'ultima crociata, che lascia stare che in Doom, in Doom voglio dire, in Wolfenstein 3D, tu a Hitler lo puoi ammazzare, che nel Mega lo ammazzi, e poi dico, e poi che cosa dice alla fine? Oh Eva, scusa, una cosa del genere, a parte che lo puoi ammazzare, vabbè, lo puoi sparare, tutto, però la soddisfazione nell'ultima crociata, che quando si ripercorre la scena che vanno a Berlino e ti scontri col Führer e gli dai in mano e nel film gli dai in mano il diario del Graal, lui lo firma, lui nel gioco, in quella scena là, tu puoi dargli da cazzotti, cioè il gioco in cui puoi dare un cazzottone, un bagno, è vero, sì, diritto in faccia al Führer, per poi perdere, perché poi sparano, però la soddisfazione di farlo, per me questo lo eleva tantissimo. Un'altra cosa che volevo dire è che dal punto di vista videoludico, oltre che dal punto di vista cinematografico, forse ha ispirato più dal punto di vista videoludico, cioè Indiana Jones, non tanto i videogiochi di Indiana Jones, Indiana Jones di per sé è ispirato molto dal punto di vista videoludico che dal punto di vista cinematografico, cioè sì. già che ne so, Pitfall, ma già lo stesso Prince of Persia, lo stesso Jordan Mechner dice che la scena quando fugge dal tempio dell'idolo, che praticamente lui salta, si appende giusto e poi risale, tutta quella parte cinematica, tutta quella scena è quello che gli ha ispirato tutto il sapore cinematico, diciamo, di tutto il gioco Prince of Persia. E poi vabbè, successivamente ci sono stati vari elementi, che ne so, a parte vabbè Tomb Raider, che è l'incarnazione femminile videoludica, a quella lì più diretta di Uncharted. Ma anche cose un pochino più, ma sono diretti tutte e due, sì, anche Crash Bandicoot, la palla, i livelli con la palla, cioè di influenze ce ne sono abituati, sì, la sì. Cosa bella è che quindi Indiana Jones ha ispirato Lara Croft, e quindi quel Tomb Raider, quel modo di fare giochi, di fare avventure 3D, che a sua volta ha ispirato quelle che avete detto, quelle schifezze, Macchina Infernale e La Tomba dell'Imperatore. Poi a loro volta questi giochi qua, soprattutto Lara Croft e Indiana Jones, hanno ispirato Uncharted, che a sua volta Uncharted ha ispirato gli ultimi Lara Croft, perché gli ultimi Tomb Raider, quindi è tutta un'influenza reciproca, per partire tutta da Indiana Jones alla fine. Marco, cosa è la tua conclusione, se c'è qualcosa che cosa dire. Devi dire, vabbè, Puccio. No, cosa c'è da dire, Indiana Jones, che ne so io, il nostro mito, basta, cioè, basta, quindi, vabbè, ok, vabbè, che dire, ok, no, una volta ho letto il libro di Indiana Jones, Il Tempio Maledetto, per dire, il romanzo, ma dai, che tu caso, hai letto un libro, poi è sconvolgente, sconvolgente questa cosa, infatti poi ho smesso. Dopo questo libro ho smesso. Ed era quella film, incredibile. Pensate, è la stessa storia. La stessa trama. Ma pensa tu che roba. Film dopo mi sono annoiato. Cioè, perché cioè, ma è uguale al libro. Esatto, io lo sono venuto a vedere a fare. Hai ragione, hai ragione. Puccio, dai, aiutiamo. No, io vivo semplicemente nel terrore che il prossimo film veda il passaggio di consegne tra lui e Shia LaBeouf, che è quello che ha fatto. No, Shia LaBeouf non se lo cagherò più, è impazzito completamente. Sì, sì, ho detto sì, che proprio stabilissimo non è. Beh, mi pare che sia un problema comune agli attori di sta generazione, vedo che insomma c'è grossa crisi, tipo la tizia. Di più. Tipo la tizia. Sì, scusa, ti vuole... anche un attimo, dico giusto sta cosa. Bello poter parlare comunque, grazie. Sì, vai, parla. Prego, prego, vai, finisci. Sono già incazzato. Per me, a parte che il Tempio di Cristaccio lo voleva Lucas, ma non lo voleva Spielberg. C'è quella trollata della scena finale, quando praticamente vola il cappello e sembra quasi che lo stia prendendo Shia LaBeouf, che sia quasi per farci credere, dice guarda, sì, guarda, sarà il prossimo Indiana Jones. Cioè proprio lì è proprio Spielberg che sa, dico, che sta facendo quella cosa, poi per fortuna rivola di nuovo, lo prende di nuovo Harrison Ford, però in quel momento diciamo, ti si gela il sangue a pensare, a far credere, cioè lì è stato proprio, sai, proprio dire io sto film non lo voglio fare, vi faccio caga sotto. Per il fatto degli alieni là, cioè, l'ha voluta Lucas, ma Spielberg non lo voleva. Scusate. No, sai, alla fine, cioè, vabbè, cioè voglio dire, a me la cosa degli alieni che ha sconvolto tanto, cioè voglio dire, alla fine, ragazzi, c'è sta l'arca dell'alleanza, adesso vanno sta pure gli alieni, cioè non è una cosa così, cioè Indiana Jones, non è che è il C-Cup, insomma, quindi ci poteva anche stare. Io questa cosa non l'ho mai capito. Che tutti si sono incazzati con questa cosa degli alieni, è una cosa scandalosa. Ma perché? Cioè, voglio dire, Indiana Jones, no, non è scandalosa, però come sono stati messi? Vabbè, sì, ma infatti il film ti ho detto, a parte alcuni, alla fine sono alieni però interdimensionali, no, ma alla fine spazio. Cioè il fatto che siano del tutto alieni non lo sappia, cioè ti può anche dire che sono terrestri di un'altra dimensione, cioè non, perché dice il mondo tra i mondi, anche interurbani, quindi, può essere teleselettivi. Carissimi amici di Runtime, io vi ringrazio a tutti, grazie per aver partecipato, a tutti quelli che stanno in chat. Vi ricordo domani la giornata mondiale della radio, noi faremo una bellissima live dalle ore 18 alle ore 23 con più o meno tutti a fasi alterne. E vi ricordo anche che la prossima settimana dovrebbe uscire un episodio meraviglioso, sicuramente live, però adesso passo la parola al responsabile, perché voi sapete che c'era questa famosa puntata sempre in ballo, quindi che è quella sua amica, però non sappiamo come siamo messi a Milano. Allora, la puntata ci sarà, ho finito adesso di raccogliere le note dell'episodio, che sono 22 pagine a 4. Porca puttana. Durerà credo un paio di ore e ci saranno delle cose piuttosto interessanti e alcuni paralleli. Credo che è la puntata di Summer Radio più faticosa che abbia mai fatto. Sono 4 anni che lavoro una roba del genere, prima ancora di Summer Radio, quando c'era archeologia videoludica, e sono contento, emozionato. Sarà anche una di quelle cose che a qualcuno sarà scontento alla fine, ma non puoi accontentarli tutti. Alla fine ho deciso di scegliere io draconicamente e di creare il mio filo conduttore di quel periodo lì, perché è anche una cosa che effettivamente prende parte della mia, di quando io ero ragazzino. Devi essere felice e sereno di aver fatto le scelte che volevi fare. Non devi pensare a quello che piace agli altri, perché tanto, voglio dire, sai, come hai detto te e come abbiamo imparato negli anni, nessuno sarà mai veramente contento. Quindi in teoria, no, se... Però questo è il primo episodio di Summer Radio che è stato sponsorizzato. Uno dei nostri ascoltatori ci ha cacciato il grano, ha detto: vi ho dato i soldi, adesso dovete farmi l'episodio. C'ha ragione. Allora, quindi, stiamo parlando di un mega crossover di tutte quante le puntate, ma a conduzione Summer Radio, quindi sarà ovviamente Alex con la sua trasmissione, ci sarà poi nei vari feed, uscirà in varie maniere, sarà live venerdì prossimo, giusto? Sì. Venerdì prossimo alle ore 21 sullo Spreaker di MDB Summer Radio. Io in contemporanea ve lo streamo anche sulla web radio, perché abbiamo questi potenti mezzi, quindi potete sentirlo dove vi capita, ma andatelo a sentire ovviamente lì. E poi ovviamente uscirà anche come archeologia videoludica, con un'introduzione diversa rispetto a quella che fa Alex, ma la puntata sarà sempre la stessa, perché chiaramente è la puntata di Alex, che è la puntata di cui, insomma, faceva parte di quel famoso blocco di puntate di sua amica, che a un certo punto si è interrotto perché ci voleva tempo, le cose devono maturare, insomma, devono avere il loro tempo. Vi ricordo quindi domani, ricordate, invece 18:23 saremo in live tutti quanti belli e gagliardi, e soprattutto poi ricomincia la settimana. Vi ricordo che su www.rantemeradio.it, come già sapete perché ci state ascoltando, oramai è partita la nostra web radio, tutti tutti i giorni, un palinsesto fisso che adesso scriveremo sul sito, perché stiamo preparando proprio la zona palinsesto, dove c'è un calendario dove potete vedere tutte le trasmissioni, a che ora escono, quando e come. Cliccandoci sopra ci saranno i riferimenti dello show e soprattutto ci sarà l'opportunità di andare anche sulle relative pagine Spreaker, perché ricordate che il podcast rimane soltanto il nostro focus principale, sarà sempre quello siamo nati, però è anche giusto, insomma, che questa evoluzione che abbiamo sempre un po' ritardato, alla fine ci darà soddisfazione anche questa, vedrete. Vi ricordo che mancano 80.088 e non vi dico a cosa, che è una cosa che sappiamo noi, e forse è un po' presto iniziare a fare il conteggio alla rovescia, però lo dico ugualmente. Detto questo, io ringrazio e saluto Marco Gualdi. Ciao Marco, grazie di essere stato con Ciao. Noi. Sempre utile come al solito. Hai portato sempre questi contributi fondamentali. Come potremmo fare senza di te? Cassetti pieni di contributi da portare. Hai ragione. Ringrazio e saluto Carmine Buccio Console. Ciao a tutti. Sempre con l'entusiasmo che galoppa. Ringrazio e saluto Francesco Lobby Frontali. Dai Marco, che tutti questi contributi ti fai una bella pensione, no? Sì. Ringrazio e saluto anche Alex G. Raccuglia. Tanta figa e prosperità a tutti quanti, ragazzi. Perché voi non lo sapete, ma lui una volta era Alex G. Raccuglia. Ma io sono ancora G. Raccuglia. Per me sarai sempre Alex G. Pensa che c'è stato un posto in cui andavo a lavorare e a un certo punto mi dice: ma non ti abbiamo trovato sull'elenco telefonico a nome G. Raccuglia, proprio G. Raccuglia. Oh, vabbè, allora sei un coglione, scusa. Anche io, guardate, e mi vergogniamo molto del fatto di questa cosa. No, ma in realtà c'è un secondo... Ma se devono vergognare loro, scusa. Cioè, perché te devi vergognare a te? Scusa. Ma sì, ero giovane. Ciao ragazzi, vi vogliamo bene a tutti. Venerdì prossimo il grande speciale su Amiga, e poi torniamo il prossimo venerdì ancora, sempre con Ludico Forum e le nostre puntate settimanali con altri temi interessanti. E si parlerà in quell'occasione, quando ritorneremo fra due settimane, sarà uno speciale monografico su The Last of Us parte seconda, inevitabile, prima o poi sarebbe dovuto succedere ed è successo. Ciao, buonanotte a tutti. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte. Bella.